che andavo a rubare i peli, che andavo sulle ciliegie a mangiarne fino a che almeno saltavo il pasto, ma almeno ero piena, capisci? A Sì. scuola facevo il cannocchiale con le mani per vedere la maestra, allora mi sono malgridato, ma non mi interessa. Il cappellano, una volta avevamo il cappellano.